un attimo. In a moment. Fra un attimo continuiamo con il dialogo, ma prima ascolti le parole nuove e le ripeta dopo la seconda volta. Visitare. To visit. Visitare. Prima di. Before. Prima di. Prima di pranzo. Before lunch. Prima di pranzo. Il pranzo. Lunch. Il pranzo. Accompagno. I accompany. Accompagno. Rimani. You stay. You remain. Rimani. Vieni. Come. Informal. Vieni. Aiuto. Help. Aiuto. Adesso ripassi il nuovo vocabolario e poi continui.